sempre noi soli. Nessuno mai saprà la sofferenza di questo cuore, che tu fai disperare senza speranza. Non parlare, non dir niente, baciami solamente, non parlare, abbracciami. Vorrei sentir che soffri insieme a me, abbracciami, vorrei morir stringendomi con te. Perdonami, è gelosia e desiderio in me, non piangere. Non piangere, perché se piangi, io piango insieme a te.